God is finest. Wonder what after my prime is. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit of the highest. Do it, I will. Do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Better big up your love for the betcha I chill. You never know what you got till it's gone. Oh my gosh. Where I go? Oh my gosh. If I'm on CD. Oh my gosh. You never know what you got till it's gone. Puntualissime alle 19:30 secondi, sta per iniziare una nuova puntata di Likewise sulle frequenze di Radio Onda Rossa in diretta. Oggi è martedì 15 marzo. E Donna Sonic e Pink lo stanno per cominciare la 15ª puntata di Likewise. Ma che coincidenza! Potete interagire con noi alla 0649 1750. Se ci fate gli squillini, noi siamo contente. Salutiamo tutte e tutti quelli che ci ascoltano da qualsiasi parte d'Italia e del mondo. Ringraziamo tutte quelle che incontrandoci fanno i complimenti. Fanno sempre bene. E ringraziamo Sampa the Great, che è la nostra bellissima sigla che ci dite sempre che vi piace moltissimo. Oh my gosh. E quindi chissà se oggi riusciremo a mettere tutti i pezzi in scaletta. Noi ci proviamo, partiamo subito. Il primo pezzo era un po' che volevamo mettervelo. Finalmente Kay Tempest, More Pressure. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing, I used to think things were so clear. I was so near to nowhere, I could feel everything in me. Pushing for certain, certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit. Less complex, more complete. Less push, more flow. Please, let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies. Saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect. But so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling. Eyes like deep sea dive. She said stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted. Less convoluted. More stillness, more movement. More existence, less improvement. More decisions, less solutions. Less inhibition, less confusion. More intuition, more connection. More nature, more protection. More abundance, more reflection. Less instruction, more comprehension. More pressure, more release. More relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go. Let me let go. Flash from the past, what's so special? Ghetto in the universal. Rolling to the road that you came here for. Look at me, man, I came here past four. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the bones. Look at my scars, look at my bones. Look at my faults. More relief, more push, more new, more new. Yes, yes, understand how to hunt. And you taught me how to hunt, so I can forget you. Traveling, mind, rubber land, let the trunk rattle down. What's true to you, what's real? This is still all the water from cars. Sitting on top of your car, we don't lose. The problem, no, no, no, no. More pressure, more release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Let's push more flow, please let me let go. E questa bellissima apertura, More Pressure, Kate Tempest, con diciamo feat Kevin Abstract, che è un musicista che fa parte di un collettivo hip hop di Los Angeles che si chiama Brockhampton. E, che dire, bellissima. Intanto bellissima. Volevamo metterla da un po'. Esatto, abbiamo resistito fino adesso perché l'album in realtà esce fra poco più di un mese. The Line Is a Curve. Ma aprile 2022, quinto disco, che possiamo dire di Kate Tempest? Per me è per base allo spirito di Patti Smith, tra l'altro, cioè non lo so, io ogni volta che la sento ho questa impressione proprio di lei poeta. Di lei, loro, di dobbiamo loro, ricordarci. Mm-hmm. Di loro poeta, rapper, compositori, scrittori, drammaturghi, spoken word, performer, un'artista diciamo... Sì, diciamo che loro, tutto tondo. Loro mettono insieme tutto quello che c'è di bello della musica, della letteratura, della poesia e riescono a infilarlo anche soltanto in un pezzo. È vero, l'album si chiamerà The Line Is a Curve, che penso che come titolo sia già tutto un programma, e sicuramente è un po' la continuazione di The Book of Traps and Lessons, almeno come dicono loro, come raccontano loro rispetto a questo nuovo progetto, questo nuovo lavoro. Ma The Book of Traps and Lessons era un po' più intimo, un po' più, diciamo, forse anche di pulizia, dice Kate Tempest, e invece questo album è forse un po' più di apertura, più di release, come dice anche in questa canzone molto spesso. Tempest sarà anche in tour presto dopo l'uscita dell'album. In realtà è possibile vederlo, vederli sempre, perché ci sono pezzi di teatro che vanno in giro, pezzi di cose composte per altri progetti collaterali. Uno degli ultimi, Filottete di Sofocle, appunto ha girato e ha avuto un successo strepitoso, insomma, quindi magari avremo l'occasione di vederli anche live. E a proposito di More Pressure che abbiamo ascoltato, lei ha detto, loro hanno detto è la penultima canzone del disco, l'hanno detto a New Music Express, è la canzone verso la quale l'intero album si sta costruendo, perché il singolo ovviamente loro l'hanno lanciato mesi fa, e adesso infatti quello che sentiamo di sottofondo è il loro secondo singolo dal disco, che è The Post, mi sembra il titolo se non sbaglio. No Prizes, ma uguale, cioè, mi hanno inventato con Lian Lahavas, in collaborazione con Lian Lahavas, che è un'altra artista che abbiamo messo in una delle nostre puntate precedenti, inventato totalmente. E dice perché quello che stiamo dicendo è che, allora dice, è la canzone verso quale l'intero album si sta costruendo in qualche modo, perché quello che sta dicendo è che possiamo riformulare alcuni degli stress a cui siamo sottoposti come possibilità di nuova crescita, una nuova resilienza, nuova accettazione, un nuovo livello di energia può venire da enormi quantità di pressione. Per noi è una canzone di elevazione ed è un cambiamento di concentrazione su alcuni temi più pesanti che vengono fuori poi nelle tracce invece del disco, e per questo abbiamo pensato che fosse una buona canzone con cui iniziare, perché ha buone vibrazioni. Io condivido, cioè buonissime vibrazioni la canzone, e nel 2020, no, perché sennò sembriamo, cioè stiamo anche, ci ha messo di fronte comunque a un fatto. I Tempest hanno annunciato che stavano cambiando il loro nome, ovvero che i Tempest ha detto ciao vecchi fan, nuovi fan e gente che passa, sto cambiando il mio nome, hanno scritto, e sto cambiando i miei pronomi. Per quello abbiamo cercato il più possibile di essere, insomma, rispettose di questo, da Kate a Kay, da she, her and they, them. Ho lottato a lungo per accettarmi come sono, ho cercato di essere quello che pensavo che gli altri volessero che fossi, per non rischiare il rifiuto. Questo nascondermi da me stesso ha portato ad ogni tipo di difficoltà nella mia vita, e questo è un primo passo per conoscere e rispettare meglio me stesso. Ho amato Kate, ma sto iniziando un processo e spero che tu venga con me. E noi andiamo con loro. loro. Noi siamo già lì, siamo già dietro accodate. Ed è un'altra cosa che volevo dire, è che Kay considerano molto collaborativo questo album. Ci sono tanti artisti e tante artiste che partecipano, è frutto di molta condivisione, di molto amore, come appunto Kay ama ricordare nelle interviste che sta rilasciando. E quindi ora cambiamo invece genere, sono le 19.09, vi ricordo che siete su Radio Onda Rossa e che questa è Likewise. Florence and the Machine, King. Che inizia col botto, eh? We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. If everything you're best at is the thing that hurts the most, but you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my empty halls to echo with grand self-mythology. I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride. But a woman is a changeling, always shifting shape. Just when you think you have it figured out, something new begins to take. What strange claws are these scratching at my skin? I never knew my killer would be coming from within. I am no mother, I'm a bride, I'm a king. I'm no mother, I'm a bride, I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing. I need my empty halls to echo with grand self-mythology, 'cause I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride, I am king. questa era la liricissima e bellissima King, Florence and the Machine. Allora, questo pezzo è un singolo che diciamo anticipa l'album che uscirà il 13 maggio, che si chiama Dance Fever. E vabbè, in realtà più che di Florence and the Machine, che sicuramente conoscerete, vogliamo parlare di questo pezzone sull'essere donna, sulla famiglia, sulla femminilità, sul sovvertimento delle aspettative e soprattutto, come racconta lei stessa, è una sorta di manifesto personale di un artista, come racconta lei, che si scopre che sostanzialmente non aveva mai considerato il suo genere. Esatto. E fondamentalmente dice, vi leggo insomma un straccio da un'intervista: andavo avanti e basta, ero brava quanto gli uomini, andavo là fuori e li eguagliavo, ma ora, pensando all'essere donna a 30 anni e al futuro, sento improvvisamente questa lacerazione della mia identità e dei miei desideri, che essere un artista ma anche volere una famiglia potrebbe non essere così semplice per me come lo è per i miei omologhi maschi. Mi ero modellata quasi esclusivamente su performer maschi e per la prima volta ho sentito cadere un muro tra me e i miei idoli, perché devo prendere decisioni che loro non hanno preso. Benvenuta tra noi, Florence. Ciao Florence, e prego, accomodati. Ecco. Vabbè, insomma, va bene. Nel senso, sì, infatti parlavamo di questa cosa che può sembrare un po', diciamo, divertente, un po' banale anche, no? Questa riflessione in realtà non lo è. Florence and the Machine ha fatto il botto appena è uscita, quindi chiaramente, ed essendo un'artista molto brava, molto preparata, che ha fatto concerti su concerti e tanti album all'attivo, giustamente, come rivela lei stessa, in qualche modo, certo, io andavo, mi esibivo, non ho mai avuto di quei contrasti, diciamo, che si possono probabilmente incontrare, ne hanno incontrato, abbiamo anche letto varie testimonianze di diverse artiste che non riescono proprio a sfondare, eccetera. Evidentemente il suo talento è sempre stato talmente fortuna, dove sei? Beh, sì, certo, mille cose per cui gli è andata bene, diciamo, gli è andata bene anche in termini di pubblico e di risposta del pubblico, e quindi forse sì, questa questione non finora non se l'era mai posta, ma appunto, prima o poi, non so, questo è un conto che da qualche parte arriva, devi pagare. E quindi sì. In qualche modo ha scritto questa bella canzone che vi invitiamo anche magari a cercare il testo per capire un po' meglio quello che racconta, insomma, ed è fondamentalmente una riflessione su, diciamo, fatta con se stessa rispetto a quelle che sono i suoi desideri, che sono cambiati, ma che resta comunque un artista, e che insomma, conciliare i desideri che cambiano con l'essere artista comincia ad essere un po' problematico, è anche un po' faticoso. Lei nella canzone infatti, insomma, alla fine dice: non sono una madre, non sono una sposa, sono un re. Esatto. Comunque, cioè, per ribadire, comunque io voglio quel posto lì, quello che mi aspetta, che mi sono conquistata e che non ho nessuna intenzione di mollare. Il disco che uscirà è il suo quinto disco, quindi appunto parliamo di una carriera avviata nel 2009 con Lynx, e dai, e quindi fa ben sperare pure questo singolo in un bel disco, un bel discone, ma soprattutto appunto noi c'è sempre tempo per diventare sensibile degli argomenti, c'è sempre tempo per quindi essere femministi, esatto. Non è mai troppo tardi, più siamo meglio è. Prossimo pezzo, Beanie, Beach Boy. I'm not afraid to E siccome likewise deve sempre equilibrare un pochino gli umori e le pesantezze, ecco la mia diciamo indulgenza pop di questa settimana, che è appunto questa artista neozelandese che risponde al nome di Stella Rose Bennett Beanie. Giovanissima, 21enne, insomma, chiaramente questo diciamo indie pop molto morbido, molto divertente, poco impegnativo, che però le sta procurando molto successo. Tra l'altro, se vi trovate dalle parti di Milano, suonerà il prossimo 20 maggio, quindi magari fateci sapere se andate, fateci un reportage. Come se la cava. Esatto, come se la cava live, perché comunque sempre quello è un grande... un grande cartina tornasole, sempre insomma. Le aspettiamo lì. Questo pezzo è tratto dall'ultimo EP che si chiama Lici ed è un EP di 7 pezzi come dai, piacciono sette, dai, tutto a sommato. Soaked up in my brain for another day, these things I'm trying to say get drenched and swept away. That's... però ci fa simpatia, su, simpatia. Groove ce l'ha, la voce è un po' particolare, un po' insomma con delle piccole, un po' roca, un po' morbida e ruvida allo stesso tempo, ci piace, gli auguriamo grandi fortune e noi invece ci dirigiamo verso il pezzo numero 4 della scaletta di stasera di Likewise, martedì 15 marzo, mi sbaglio quei mesi, ragazzi. Forse per essere. Tu sei proiettata verso. Sì, perché mi viene maggio, quindi vi dico solo questo. Sì, sarebbe sicuramente più avanti. Non so come dire. Ma credo che sia una sensazione di fuga che. Comune. Sì, comune condivisa. Anche per la pressione che c'è appunto intorno a noi e le situazioni non proprio piacevoli. Amelia, Jackie, All Around Town. Your favorite night bird. like a black, black moon. Tell me what to do, oh, with you. Anything you want, oh, me too. And yes, I do. Amelia Jackie All Around Town, interessante queer lesbian americana singer e songwriter e chitarrista anche. Chitarrista, un suo amico musicista ha detto di lei che Southern Gothic Bastard out of Carolina lesbian americana. Cioè, insomma, e la citazione in mezzo è quella di un libro. E in realtà Amelia conferma, dice quello che è, cioè la mia musica è questo. Quello volevo dire. E lei dice: Bastard Out of Carolina è un libro di Dorothy Allison. Se non l'avete letta, leggetela. No, cioè, senza se e senza ma, proprio leggetela. Cominciate da trash, cercate i romanzi, oppure cercate i romanzi e poi leggete i trash, che è una raccolta di racconti. E ti ricordi in quel libro come lei non può cantare, vuole davvero farlo? Mi sono davvero immedesimata in questo. Sono cresciuta senza molto, ma con molta passione. Bon, in Bastard Out of Carolina, aveva questo dolore estremo per non poter, per non essere brava, per non essere in grado di cantare. Questo la faceva cantare da sola. Ho avuto la stessa paura, ma l'ho fatto comunque in pubblico. Devo sforzarmi molto per essere brava. Il problema per molto tempo è stato che cercando di essere brava, quanto avrei cercando di essere brava quando avrei dovuto semplicemente essere quella che ero. Stasera siamo a gender power a massima potenza. È un caso, perché voi come sapete le scalette vengono fuori così dal mood. Un caso fino a un certo punto, sì, nel senso che poi diciamo in realtà alcune selezioni poi influenzano delle altre, alcuni pezzi che mettiamo lì pronti per essere messi poi ci sembra che giustamente stiano bene con altri, quindi in qualche modo viene fuori un tema naturale della, per una volta naturale si può dire, della trasmissione in qualche modo. Sono gli strascichi dell'8 marzo, che come avrete sentito noi abbiamo scioperato, avevamo anche preannunciato che probabilmente avremmo scioperato, e vi ricordo che se non avete ascoltato la radio in quella giornata potete recuperare sul sito ondarossa.info tanti redazionali e tanti interventi che sono stati molto interessanti, devo dire. Sì, anche per farvi un'idea di quello che succedeva in tutta Italia, quindi esatto. Insomma, mi sembra un bellissimo specchio. E parlavamo anche fuori onda del video, in realtà, che insomma c'è un bel video di un altro pezzo che si chiama Velvet Leash, e insomma vai Pinco, ti lascio il microfono. Vabbè, in realtà è sempre Colin che parla, dicendo che insomma che questo video è un accompagnamento perfetto, cioè andatelo a vedere perché effettivamente è molto bello il video. Un mondo visivamente sbalorditivo di colori vividi, frutti paffuti e tessuti lussureggianti e decadente senza sembrare ricco, un mondo popolato di donne e checche. Mangiano, fanno il bagno, si truccano in gruppo davanti allo specchio del bagno, partecipano insieme a una festa in un pittoresco bungalow artigianale di Los Angeles. Sono butch, femme, androgine, cis, trans, whitefish e zaftig. Sono tutte belle, sono tutte amiche. Quando il video è uscito ho scherzato dicendo che era il reboot di El World che tutti volevamo ma che non meritavamo. Speriamo di avervi incuriosito, andatevi a cercare il video di Amelia Jackie, perché comunque effettivamente il video è molto interessante, molto bello, particolare. Assolutamente molto bello. Passiamo al prossimo pezzo, Gender Studies Male. 1, 2, 3, 4 My gender, tell me it's not enough. Shout at me in the streets, claim it'll make me tough. Why don't you study my gender? Tell me there's only two. Tell me that it's perfect, it's enough for me and you. gender. Tell me I'm no fun anymore. But I used to be quiet and pretty. You like the old me more. Why don't you study my gender? Stretch out so we both can see. Ask and face questions. Pretend you're not hurting me. We fight this dirty war, and I tell you that you're trash, and you call me a whore. We've nothing gained and nothing ventured, and there's no outcome we haven't seen before. So go ahead, study my gender. Bring all your fears and insecurities to the fore. Cause when you study my gender, guess what? I like the new money more. Cause when you study my gender, guess what? I like the new me more. E ci hanno stupito con questo finale. Spunk, mannaggia, noi qua a chiacchierare come al solito quando sappiamo che è pronto, tipico delle canzoni post-punk, boom. Ho finito, volevo, ho detto tutto. Band punk intersezionale femminista, vi ricordo, a volte ce lo chiedete, le definizioni che diamo non le inventiamo noi, ma cerchiamo le autodefinizioni, no, certo, delle artiste, degli artisti, e quindi insomma le ricalchiamo perché è così che vogliono essere definiti. È una band nata nel 2016, si chiamano, si pronuncia Male, come appunto maschile, si scrive M-H-A-O-L ed è una parola... L'H comunque tra parentesi, quindi c'è tutto un gioco. C'è tutto un gioco, esatto. Un gioco di parole, ed è una band che viene da Dublino, se non ricordo male, correggimi se sbaglio. Irlandese, sì. Sì, vengono da Dublino. Adesso vivono tra Bristol, Dublino e Londra, perché appunto hanno ricominciato a suonare dopo uno iato di circa 5 anni, e noi siamo super contente perché questo pezzone Gender Studies... Tutto l'EP è carino, sì, anche questo bello. È un EP, sono 5 tracce, e in realtà è quello di debutto sul, penso, sull'etichetta indie Tool. E, peraltro cercatevi perché c'è un 12 pollici che sarà un vinile trasparente in edizione limitata, sempre per finanziare le giovani band, le giovani artiste, eccetera eccetera, perché appunto la musica non è che poi è gratis, e quindi se vogliamo che loro continuino a far quello e solo quello, se le finanziamo è anche meglio. E se vi comprate il vinile che è in edizione limitata, c'è una cartolina firmata dalla band, e se io voglio l'adesivo glitterato Ghost a Post Punk Boy Today. È una traccia aggiuntiva, peraltro c'è una traccia in più, e l'hanno registrato, come giusto da buono di EP post punk, in 3 giorni, scritto e registrato, come dicono loro stesse. Ogni tipo di musica e ogni testo dei pezzi che proponi alle persone, sia che abbia un'implicazione diretta politica o no, è comunque un testo e una musica che rinforza delle idee, quindi in qualche modo la loro scelta anche del nome, come dicevamo, Male, era proprio appunto per, fondamentalmente per opporsi a questa necessaria definizione di female band, quando nella band ci sono soltanto prevalentemente donne. Loro sono comunque Rosie Nick Geralt, Constance Kane, Jamie Hill, Zoe Greenway, che ha firmato tra l'altro la copertina dell'EP che è bellissima, Sean Nolan, prodotto da Jamie Highland, l'artwork ve l'ho detto, ed è dedicato a Sophie Gwynn Williams. E se poi vogliamo completare un po' l'interesse che stiamo cercando di scaturire in voi, c'è un bellissimo pezzo che si chiama Clementine, in cui praticamente si sono ispirati a una lettera anonima satirica scritta indirizzata al Times nel 1913 in risposta appunto alla campagna antisuffragiste, quindi insomma delle suffragiste, quindi era sostanzialmente una risposta a chi si opponeva al voto delle donne. E quindi in questa lettera, in sostanza, la scrittrice anonima diceva: vabbè, ma se non possiamo votare e siamo così inferiori, a sto punto eliminateci del tutto, no? Sì, mi piacerebbe. Quindi molto molto molto divertente, e comunque appunto i loro pezzi molto divertenti, nel senso che sono molto tosti e anche in maniera molto molto satirica raccontano delle storie della nostra storia. Prossimo pezzo? cambiamo genere, lasciamo il post-punk, ci inoltriamo nella sperimentazione jazz. Angie Zapkan. Questa è Angie con Zapkan, e spero che si pronunci così, perché lei è una cantante della Mongolia che si è trasferita a Monaco. Pink, raccontaci come c'è arrivata a Monaco questa musicista. Allora, lei è nata e cresciuta nella capitale della Mongolia, Ulan Bator, e sta insomma di una piccola famiglia che viveva in una piccola yurta, in una famiglia di lavoratori, però ha sempre avuto la passione della musica. Vabbè, lei pensava, diceva, vabbè, ho la passione della musica, faccio l'insegnante. Poi è arrivato un progetto finanziato dal Goethe Institute con un bassista di jazz che si chiama Martin Zenke, e alla fine anche le sue colleghe, insomma i suoi amici, dicevano, ma vai, prova a fare un'audizione, prova anche tu. Beh, lei ha detto, vabbè, vado a provare per fare la pianista, però ha portato un pezzo cantando, e quindi loro pensavano che lei si fosse candidata per fare la cantante, l'hanno presa per cantante. Poi vabbè, da qui ovviamente sono nate diverse collaborazioni. Alla fine lei è venuta a studiare in Europa musica, è stata in, appunto, a Monaco, e il primo disco che ha inciso era una raccolta di canzoni tradizionali mongole con un arrangiamento jazz, e lei pensava in realtà che per questo secondo disco avrebbe più o meno fatto non la stessa cosa, ma avrebbe cantato degli standard jazz, e invece poi ha incontrato un'altra persona ancora, che è il suo produttore discografico attuale dell'etichetta per cui è uscito questo secondo disco, che adesso non mi ricordo come si chiama. Squama Recordings. Sì, lui nella persona, e alla fine ha detto: scusa, ma perché non provi a scrivere qualcosa di tuo? Lei lì per lì si è un po' impaurita di questa cosa, diceva: ma io non ho mai scritto, che adesso metto a scrivere. E invece poi alla fine si è lanciata ed è venuto fuori questo disco. La traccia che abbiamo ascoltato, che ha un nome così particolare perché è dedicata al padre, in realtà, e quindi ovviamente era questa la... È anche molto, diciamo, molto intima, e racconta appunto della difficoltà in certe culture, il fatto che in certe culture, diciamo, le manifestazioni di affetto siano espresse in maniera molto più silenziosa che in altre parti. L'album si chiama Ursgal e appunto lo potete trovare in giro, quindi... Sì, cercatevelo, anche perché appunto secondo me fa bene sempre allo spirito e al cuore ascoltare cose particolari, diverse, che ci fanno anche viaggiare attraverso le culture e espandere le nostre conoscenze, la nostra mente. Siamo come al solito, penso, in ritardissimo, sono le 19:42, siete su Radio Onda Rossa e questo è Likewise, e abbiamo una cantautrice olandese, perché cioè, giriamo anche per tutto il mondo, lo sapete, Sleeveless da Draft Luften. Don't call the police, I know it must be strange to be seeing me there. Sleep marks on your cheeks, look for an unlocked door, cause there's something I need to talk about. Hear me out, please. Can I take a seat? Frankly, I could use your company. Man is a machine, but don't you think we try to hard to be to some degree? Or at least that's me. Some nights I dream. This is reality. Your clock says 3:30. We're still listening. It's like medicine. It's oh, everything is alright. No, everything is alright. Feel everything is alright. Too, it's a sleepless night. To hide like a thief in a sleepless night. No need to hide what hides behind an open door. If houses made from glass windows is a sleepless night with. Sleeveless Luten, speriamo di averla pronunciata bene, con l'olandese non vado tanto d'accordo, devo dire. Lei si chiama Tessa D'Austria, poche notizie sulla sua biografia, sì, che va pure bene. E, no, insomma, anche perché non ne vuole rilasciare troppe, lei dice che la sua musica parla per lei, quindi... molto molto diciamo riservata come diciamo rispetto alla sua vita privata, invece rispetto alla musica, a questo album che abbiamo, dal quale abbiamo ascoltato questo pezzo, si intitola Draft, in realtà racconta molto di sé, molto delle sue esperienze personali, ci sono molte voci delle persone che le sono vicino ed è un bel diciamo un bel lavoro in cui diciamo una parte elettronica e una parte diciamo analogica si fondono insieme, secondo me in un modo molto interessante. Interessante. A me fa pensare un po' alcune cose di Jonas Police Woman. Non so se ti. Sì, sì, sì, sì. Oggi non abbiamo mai messo sulle B-side. Oggi le B-side le abbiamo bistrattate, sì, è vero. Perché siamo sempre in ritardo. Perché siamo sempre in ritardo. Sì, insomma, secondo me no, è merito, vale la merito, pena ascoltarla. Il disco merita, sì, sì. È uscito l'anno scorso, Draft. Tra l'altro ha fatto tutto lei, cioè, sì, insomma, ha fatto tutto, ha scritto le canzoni, le ha, diciamo, le ha arrangiate, le ha registrate, le ha prodotte insieme a Frank Wink, insomma, quindi fondamentalmente è anche un artista a tutto tondo. E comunque sono d'accordo con chi, insomma, facendo la recensione del disco diceva... rifugiarsi insomma nella sua musica e scoprire una tranquillità che libera la testa, uno spazio contemplativo lontano dalla routine quotidiana, quindi direi che potrebbe essere utile. Segnate soprattutto per... quando cominciamo a dire maggio anziché marzo. Esatto. Invece adesso cambiamo genere e ascoltiamo un pezzo che è una bomba, Easy to Kill. Lei è Ivy Sole, è il tratto dall'album Candy, 13 brani, terzo disco. Vai. From life before I lose it, it was money, love, and music. Now the freedom is the muse to tell the truth and tell it fluid. Let it flow until my ruin. Niggas toothless, so uncouth, can't give them shit for the truth. My uncle Tony told me always keep a stick in a move, keep a trick in a crew, keep the tips you accrue. The wise among us listen once and improve. Yeah, yeah. Forgiveness doesn't vibe with our palate, so pass the plate, nigga. You cannot tarnish my chalice, my palate paint, nigga. I'm Rembrandt, so wherever these sins stand, I'm Sistine. Skin sizzling from a new brand. I ain't free, so I can't die. We ain't free, so we gon' ride. I ain't free, so I can't die. We ain't free, so we gon' ride. Yeah. Why these niggas so easy to kill? Tell me why these niggas easy to kill. Why these niggas so easy to kill? Tell me why these niggas easy to kill. Why these niggas so easy to kill? Tell me why these niggas easy to kill. Why these niggas so easy to kill? Mama, why you make me easy to kill? I don't wanna die cause I'm too close already, too close, too deadly. Mama made me easy to kill, but I'm a killer too. Thriller moves, Manila through. My punches hit like 10 and 2. I drive you niggas up the walls, and biddies too. On tiptoe, go Cyclops, break Grand's was on sharecrop, get the dollars, cause I can't go broke. Can't go back to that on my soul. Call my dog, he said 10-4. Told me, G, let's ride. Hit him back like I got shorty with me. Drop her off, then slide. I go inside, and they plotting on deposits. I can't call it off. My pocket's empty, and the homies on that Molotov. That's a dangerous mix. Black and alive, now that's some dangerous shit. Why these niggas so easy to kill? Why these niggas easy to kill? Why these niggas so easy to kill? Tell me why these niggas easy to kill. Why these niggas easy to kill? Tell me why these niggas easy to kill. Why these niggas so easy to kill? Mama, why you make me easy to kill? Yeah. Questa era Evil Soul Is To Kill, album appunto che avevi già preannunciato, Candid, uscito il 2 febbraio se non ricordo male, quindi insomma novissimissimissimo. Che dire, mi sembra che questo pezzo... Questo disco spacca, cioè questa domanda proprio a martello. Perché è così facile uccidere un nero? Una roba proprio bella chiara e sì, insomma, una, lei è di Filadelfia, lei, loro, anche in questo caso entrambi i pronomi sono ok, credo. Yes. Così ha detto lei. Così ha detto lei. E una, appunto, una musicista di Filadelfia, ha questo, diciamo, questo flow super in realtà super lento fondamentalmente, sì, no? Molto lento, rispetto molto ad altre cose che abbiamo ascoltato. Super lento, ma anche super, diciamo, espressivo. Sì, non sì, soltanto sì, nei testi, anche proprio nel suo modo di raccontare le storie. Un album molto intimo, secondo me, insomma, che racconta storie personali, come avete potuto ascoltare, insomma, che stanno molto sulla pelle. E segue il suo EP, che credo fosse uscito un paio d'anni fa, che era decisamente più come posso dire, forse più cerebrale rispetto a questo, meno immediato, meno. Come posso dire? Smart. Sì. Left your heart just past the door. Left my body more than able. E anche lei, diciamo, una delle persone esposte che sta facendo crescere il movimento degli artisti non binari. E quindi. Bella roba. E quindi si meritava questo spazio. Esatto. A parte che la canzone è veramente fichissima. Cercate il disco Candid 2022, quindi è appena uscito. Brano numero 9, 19:54. Senta che forse ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la facciamo. Faccio a 10 no, però il 9 sì, dai. Ci proviamo. Dai. Night Steps. Thank you. siccome a Likewise non ci facciamo mancare di niente, ci voleva anche un po' sì, di sperimentazione jazz, trip hop nella della, diciamo, buona scena di Bristol. E io conosco pochissimo questo trio, che tra l'altro viene da un collettivo. Viene da un collettivo di 8 membri e poi alla fine sono rimasti loro tre e l'artista da cui prende il nome il trio e altri due musicisti. E in realtà questo invece di contrarre la loro creatività la espansa verso queste sonorità molto particolari che abbiamo ascoltato, questi ibridi di generi, e quindi ci piaceva come al solito farvi sentire qualcosa di diverso. In Spring è un EP di 4 pezzi, è uscito alla fine dell'anno scorso, che hanno pubblicato un solo disco. Andatevi a cercare se volete delle sonorità un po' particolari, strumentali, non sono male. Sampa ci incalza qui sotto perché sono le 8. Tutto si può dire di noi, non che cerchiamo di non pure di le campane, cioè, perché siamo in diretta e questo lo dovreste sapere. Martedì 15 febbraio, ciao marzo, e Radio Onda Rossa. Volevamo dedicare la puntata ai Gui, che è una lesbica della periferia, povera della periferia di Buenos Aires, che è stata accusata di omicidio per essersi difesa da un tentativo di stupro correttivo di gruppo. E quindi mucha forza, se volete seguirlo trovate tutte le informazioni per seguire gli aggiornamenti e anche tutti, diciamo, i link sul blog delle Cagne Sciolte, cagnesciolte.noblogs.org. quindi se volete saperne di più di questa storia, di come sta andando, perché oggi c'era il processo, diciamo, c'era l'udienza in tribunale, e sinceramente non so come sia andata, però appunto ci andavo di dedicare la puntata a lei. Cercatevi le notizie, magari usate gli hashtag, fate un po' di girare questa storia, perché tutte ci saremmo difese come lei, vorrei dire, e questo mi sembra il minimo. Assolutamente, grazie alle Cagne anche per aver coperto questa notizia in maniera molto molto approfondita. Noi vi salutiamo, vi lasciamo a Cose, Note, Cose, Città. Note, Cose, Città. Io mi confondo sempre con il come gioco. Nome, Cose, Città. Note, Cose, Città. Hai ragione. No, lo so che ci si può arrivare nella mia mente. È finita pure Sampa. Cioè, proprio dobbiamo andare via. Ciao, Likewise, se ne va. Ci vediamo alla prossima puntata. Buon ascolto. Restate sui microfoni di Radio Onda Rossa. Ciao. Ah, dimenticavo, questo weekend c'è la Perirore, eh? Non mancate, la radio ha bisogno di voi, lo sapete che abbiamo bisogno di voi. L'aperitivo a sostegno di Radio Onda Rossa al sabato 19 marzo all'ex SNIA Viscosa a partire dalle 18, fatevi vedere, dateci una mano, che qui è difficile, lo sappiamo tutti, insomma, cosa sono gli aumenti delle bollette e i costi. Radio Onda Rossa si basa sulla forza di tutte noi, sulla forza del collettivo e della comunità, quindi non mancate, mi raccomando. Ciao. Ciao. Think it's cheese. Got my Louise. Took a lot of effort just to get her from the